Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 30 maggio 2015. Boom per il cibo ad alto consumo di fibra. Il mercato globale vola ad oltre 24 miliardi di dollari. Meglio delle previsioni. I consumi di alimenti integrali ad alto contenuto di fibra volano letteralmente, spinti anche dai forti investimenti dell'industria alimentare, che negli ultimi anni ha puntato su molti prodotti innovativi e di larghissimo consumo integrali o anche contenenti fibre aggiunte. A fine anno, secondo le ultime stime, il mercato globale del settore potrebbe superare quota 24 miliardi di dollari, migliorando leggermente la previsione elaborata nel 2011 da Global Industry Analyst. Fin qui la notizia del 30 maggio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Il contributo delle fibre per la salute è ormai suffragato da evidenze scientifiche sempre più chiare. Anche per questo, a inizio maggio, il convegno internazionale sul tema, organizzato a Roma dall'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, ha visto la partecipazione di numerose multinazionali del settore alimentare. Marina Carcea, ricercatrice INRAN e organizzatrice dell'evento. Ricerche effettuate in diverse parti del mondo mostrano che c'è un effetto benefico per la salute che riguarda la prevenzione di malattie cardiovascolari e problematiche legate alla vita nelle società più avanzate, come ad esempio l'insorgenza di diabete di tipo 2 e tutta una serie di tumori dell'apparato digerente. Noi troviamo fibra nei cereali, troviamo fibra nei prodotti vegetali, troviamo fibre negli insetti, ad esempio. Alcune popolazioni mondiali mangiano anche insetti, per cui insomma la presenza della fibra negli insetti è importante. Le fibre si portano dietro anche tutta una serie di cosiddetti composti bioattivi, cioè composti che hanno delle funzioni antiossidanti, di prevenzione di meccanismi degenerativi che poi portano all'insorgenza di tutta una serie di malattie. Ecco, tutto questo rende la fibra estremamente interessante e estremamente importante anche per l'industria alimentare, che ultimamente sta proponendo sul mercato molti prodotti cosiddetti integrali o prodotti arricchiti di fibra. Come si comportano in particolare gli italiani rispetto al consumo di fibre? Le ultime statistiche ci dicono che come italiani non consumiamo la quantità di fibre che i nutrizionisti indicano come ottimali per mantenere uno stato di buona salute. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.